Oggi parliamo di piccoli libri e del tempo. Piccoli libri e del tempo, che cosa vuol dire? Vorrei segnalarvi alcuni testi ultra tascabili, che tutti quanti in qualche maniera riguardano il problema del tempo. Il primo è un classico, parliamo di cose oggi non propriamente di fantascienza contemporanea, ma appunto un po' in là con gli anni. Il primo testo quindi che vi voglio segnalare è l'ultimo per il momento Classici Urania. Ve lo segnalo con un po' di ritardo perché è già in edicola almeno da 15-20 giorni, i Classici Urania di maggio, ed è un classico di Sir Arthur Conan Doyle, cioè il creatore di Sherlock Holmes, il quale però oltre al fortunato personaggio dell'investigatore di Baker Street ha nella sua carriera letteraria dato vita anche a un altro personaggio non meno bizzarro di Sherlock Holmes, cioè il professor Challenger, il quale è protagonista di alcune avventure di tipo, diciamo, apertamente fantascientifico, scritte nei primi anni del secolo, fra il 1910 e 20, se non mi ricordo male, la prima delle quali è proprio questo famoso romanzo che si chiama Un mondo perduto, da cui sono stati tratti ben due film, uno famosissimo muto con gli effetti speciali di Willis O'Brien, e l'altro un remake degli anni 60, sempre con questo titolo, Un mondo perduto. L'idea penso che la conosciate tutti: in una isola sperduta dell'Oceano Pacifico, mi sembra, c'è appunto un altopiano isolato dal resto del mondo, nel quale si è mantenuta una sorta di fauna da giurassico, quindi praticamente siamo. Cioè una delle fonti ispiratrici in qualche modo del libro di Crichton, insomma. E questo professor Challenger è uno scienziato, peraltro abbastanza burbero, forse anche burbanzoso, il quale si reca a fare una spedizione, lì la nostra carovana subirà, diciamo così, patimenti di ogni tipo fino a tornare indietro, purtroppo, ahimè, come ben si addice a questo genere di avventure, con nessuna prova delle cose che ha visto. È un, appunto, ripeto, un classico con un'atmosfera in parte parzialmente verniana dovuta agli anni in cui è stato scritto, ma assolutamente godibile. Siamo contenti che i Classici Urania ogni tanto, quando vanno a ripescare nel passato, trovino anche delle cose di questo tipo. Dicevo, perché i libri piccoli? Beh, perché questi Classici Urania, come voi sapete, hanno un piccolo formato. Si possono comodamente tenere in una tasca. Io credo che con la primavera si smettono borse, cappotti, eccetera, eccetera. Almeno a me, io, diciamo così, a me capita così, cioè mi piace andare in giro con dei libri piccoli che si possono mettere in tasca, eccetera. E quindi un po' anche il formato dei libri conta da questo punto di vista nelle epoche. Ecco, e allora ci sono questi libri ultra tascabili, direi, ancora più piccoli del formato dei Classici Urania, un po' più corti perlomeno. Ci sono i libri famosissimi della collana Riflessi delle edizioni Teoria, ma io vorrei parlarvi oggi dei libri piccoli, sempre delle piccole collane di un'altra casa editrice meno nota di, diciamo, Teoria, più periferica di, appunto, Teoria, che è l'editore Solfanelli, che sta a Chieti. E che è un editore un po' particolare perché cerca da un lato di recuperare tradizioni o insomma comunque diciamo testi e cose del centro Italia, però dà una, anzi, particolare, direi prevalente attenzione al fantastico, soprattutto al fantastico italiano. Bene, nelle collane, queste piccole collane dell'editore Solfanelli sono principalmente due. La più bella, anche da un punto di vista grafico, si chiama Il Voltaluna, esce da qualche anno, contiene dei testi che sono i più vari. Adesso ho qui sotto mano, sotto gli occhi, l'ultimo, che è un testo, sono una serie di prose, di appunto racconti di D'Annunzio. Non ve le segnalo perché siano, almeno a me non è che mi tirano particolarmente, però mi sta venendo in mente che essendo. Siamo in tempi di maturità, potrebbe essere che qualcuno magari possa avere voglia, bisogno di un testo da portare per la, come dire, maturità. Ecco, quindi, allora, delle prose semifantastiche di Gabriele D'Annunzio. Di questa collana, però, il Voltaluna, invece, il testo che voglio segnalarvi è uscito da qualche anno, ma cercatelo, si chiama I novizi di Lerna di Ángel Bonomini ed è un vero piccolissimo capolavoro della letteratura argentina contemporanea ed è una bella collana anche dal punto di vista grafico, insomma, ci sono, e sta tentando di recuperare alcune opere anche del fantastico ottocentesco o tardo ottocentesco inglese, francese e tedesco. Ci sono opere di Balzac, di Tieck, c'è un Lovecraft anche interessante. L'altra piccola collana, sempre di Solfanelli, ma cercatela nelle librerie, non è molto ben distribuita, ma si può trovare. Si chiama invece La lampada di Alasred e comprende testi quasi tutti italiani. Quello che ho sotto gli occhi adesso è un piccolissimo libro di Riccardo Reim, che si chiama Oscure circostanze. Sono una serie di racconti uniti da un personaggio, sembra comune, e comunque dal fatto che si tratta di racconti fantastici collegati con i quadri. Riccardo Reim, sapete, è un uomo che fa, diciamo, teatro, fa soprattutto sì, appunto, opere insomma, drammatiche, e qui c'è una scrittura di tipo omosessuale, diciamo, dichiarata, molto molto gradevole per certi versi, un po' strana, insomma, però in cui c'è questo aspetto appunto sensuale, questa commistione tra arte e vita, tra quadro e insomma, vita reale, che può interessare. Vi segnalo, vi ricapitolo rapidissimamente quindi i titoli di oggi: Arthur Conan Doyle, Un mondo perduto, Classici Urania di maggio, il prezzo è contenutissimo, come voi sapete sono solo 6.000 lire per ben 256 pagine, dell'editore Mondadori, edizioni Solfanelli, collana Il Voltaluna, per esempio il mistico sogno di Gabriele D'Annunzio, il prezzo si aggira fra le 6 e le 7 mila lire per meno di 100 pagine di piccolo formato, ancora più economici i piccoli libretti della serie La lampada di Alasred, vanno dalle 4 alle 5 mila lire per 50, 60, 70 pagine, e a risentirci la prossima settimana.